24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese. I bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo, elettori, il bagno alla turca. Lavoro sull'Expo perché sono straconvinto che l'Expo sia veramente la grande opportunità italiana. Poi la provvidenza, insomma, agirà la provvidenza sulla mia sorte personale l'anno prossimo, gli anni prossimi, non lo so. Letta, tu sei nelle mani della provvidenza e noi che siamo nelle mani tue, che sei nelle mani della provvidenza, le mani di preciso noi, dove ce le dobbiamo mettere? Già, dove ce le dobbiamo mettere? Non lo so. Il nostro alpino Peter Bescapè avrebbe un 2, 3, 4, 5 suggerimenti. E Miriam Lucchetti, che si sa, invece ha più gran classe, eccetera, sorride, fa finta di niente. Non lo so, dove ce le dobbiamo mettere queste mani? Oh, ma oggi leggi i giornali, ma è come nelle più clamorose crisi democristiane, nel giro di due giorni. Anche il Corriere dice: sorpreso Letta di come in due giorni stia franando tutto. Ormai è fatta, ve lo dico, è fatta, cari italiani. Renzi al governo tra pochi giorni. Questo pare ormai accertato. Circolano già i ministri, i toto ministri ci sono già sui giornali. Il Corriere fa una pagina sui toto ministri, Repubblica sui toto ministri. Tra poco vi dico i nomi. Cioè, manco c'è il nuovo governo, ma sono già avanti a dire: c'è Renzi e il toto ministri. Vabbè. Sono le 6:32 minuti, questo è 24 mattino e voglio salutare, li ho già fatti, Miriam Lucchetti, Peter Bescapè. Il nostro Parlamento può aprire finalmente. A un caffè, Nicole è sempre qui. E come ogni mercoledì io voglio salutare la ministra del... No, Paola Saluzzi, no. Non c'è nel Toto Ministri, non c'è. Sarebbe meraviglioso. Sarebbe straordinario, affonderemmo in tre mesi. Cara Paola, affonderemmo in tre mesi, ma sai che tre mesi li ricorderemmo nella storia. Ma se io fossi ministro probabilmente affonderemmo in tre giorni, nel senso che andrei lì a dire tutto chiaro in faccia a tutti, ma insomma... Che ministra vorresti fare? E dai, dell'interno, le forze dell'ordine, ah? Dell'interno, ahia, durissima, ahia. Vai lì dai, non so, dalla polizia, dice... Generale Saluzzi. Il ministro dell'interno. No, ce n'è già uno in circolazione. No, basta il papà. Ci penso, mediterò, signor primo ministro, perché lei ovviamente fa il primo ministro. Ovvio, questo lo davo per scontato, come Renzi. Il ministero dell'interno affidiamolo a Peter Bescapè e a tutti gli altri. Interno e difesa insieme. Vabbè, allora lo chiedo a Luca Dini, direttore di Vanity Fair. Caro direttore, tu che ministro vorresti fare? Tanto qui ormai... Pari opportunità, ecco. Vedi Paola che chic, che classe, che charme. Io Luca Dini, in vista del prossimo settennato, lo porterei al Quirinale. Già. Con una repubblica semipresidenziale, un signore come Luca Dini io lo porterei al Quirinale. Non ha l'età, ci vogliono almeno 75, 78, 80 anni, ecco, più o meno, per arrivare lì. Vabbè, sentite, quando ci si mette nelle mani della provvidenza, a mio modo di vedere, è finita già da un pezzo. Tu, cara Paola, cosa ne pensi? Sono fresca di Don Camillo ieri sera, insomma, per l'ennesima volta rapita dalla bellezza di quel film. No, quando ci si mette nelle mani della provvidenza non è la fine. Si cammina bene e si procede nel modo migliore, secondo me. Il problema è affidarsi alla provvidenza tout court. Sì. Quindi credo che probabilmente Letta, in maniera molto elegante, questo sì, stia dicendo che vedrà. vedrà, vedrà, vedrà. Che, da vedrò a vedrà. Da vedrò a vedrà, questa. Accadere, vediamo se per lui si spalanca la porta dell'Europa e sappiamo che cosa succede. Sì, ma la verità è che a leggere i giornali c'è un'accelerazione clamorosa. Tra l'altro, quante volte abbiamo detto c'è al governo la mi sembra la vecchia Democrazia Cristiana? Quante volte l'abbiamo detto? E effettivamente pare che Renzi abbia incontrato Tabacci, caro Luca Dini, uno della vecchia Democrazia Cristiana, e il problema, gli abbia detto Renzi, è fatta. L'unica cosa, l'unico vero problema è l'uscita onorevole per Letta. E Tabacci gli ha detto, ma fai come i nostri vecchi democristiani, dagli il Ministero degli Esteri. E pare che andrà così, caro Luca. Cioè ormai è tutto già scritto, non lo so. C'è di peggio, C'è di peggio, sì. Ma finirà davvero così? Avremo Renzi? Non so, sai, io penso che a volte certe pagine dei giornali sono un po' alberi sprecati per oggi, diciamo. Però a me non dispiace questa cosa che lui ha detto. Come dire, mica finisce qui, cioè, come dire, vivo lo stesso, non ho bisogno di questo. Cioè. Dici che l'ha detto, l'ha detto già quindi in tono rassegnato, però sembra ormai abbastanza scritta anche per te, insomma, questa vicenda. Non lo so, guarda, onestamente, secondo me non è ancora scritta, però... Non è ancora scritta, ma non lo so. Comunque i toto ministri, visto che girano, ve li dico. Il Corriere della Sera scrive che addirittura sarebbe Renzi vorrebbe arrivare al governo e giurare tutto entro lunedì. Ovviamente tu, Paola Saluzzi, sai perché entro lunedì? No, come no? Sai perché entro lunedì? Perché poi c'è Sanremo! Sanremo! Martedì c'è Sanremo! Bisogna... certo, si sospende tutto! C'è Sanremo e Sanremo! Cara Paola, insomma... Sanremo e Sanremo, certo! Ma certo, è ovvio! Però, ma non è una battuta, ma è così, è chiaro! Questa rapidità di azione con la quale lui salta tutti i vecchi... processi di bisogna attendere i 15 giorni, poi gli altri 15 giorni, cioè si deve fare una cosa, si fa. Adesso vediamola dal punto di vista del probabile neo primo ministro, neo presidente del Consiglio. Si deve fare, si fa. Infatti racconta i giornali, la vera forza di Renzi è la velocità con cui, no? L'energia cinetica che ha, deve sfruttare questo momento, no? sempre in grande movimento. E per la nostra politica non è esattamente una cosa. È una cosa abbastanza nuova. Comunque i nomi sono Baricco alla cultura, circola, amico di Renzi, l'amministratore delegato di Luxottica, guerra all'economia, questo lo danno sia Corriere che Repubblica, oppure Padoan, oppure Bini Smaghi, e poi circola Del Rio, un altro che è attualmente ministro renziano, all'interno, cara Paola Saluzzi, t'ha fregato, Del Rio pare all'interno, però trovo abbastanza clamorosa, insomma, questa accelerazione, ma... Tutto sembra abbastanza, non lo so, così talmente scontato. Abbiamo bisogno di soluzioni, per favore, soluzioni. No, esatto, perché la domanda è questa, può cambiare e cosa può cambiare con Renzi al posto di Letta, caro Luca Dini? Davvero, cosa potrebbe cambiare? Cioè metti uno al posto di un altro e che succede? Il linguaggio sicuramente, la comunicazione, la velocità, secondo me varie cose potrebbero cambiare. Senza, insomma, illuderci troppo, però io credo che potrebbe cambiare abbastanza il percorso, forse anche il percorso di uscita dal pantano in cui ci troviamo. È una questione... La velocità di uscita. Cara Paola. In tutto ciò Letta ha seguito un periodo, insomma, difficile e non chiaro, ha guidato nella nebbia in questo periodo, non per dare il ma è stato tanto bravo, insomma i problemi ci sono, però ha guidato nella nebbia, no, lo so, perché un po' si intende di macchine e non vive esattamente ad Alba o a Cuneo o ad Alessandria, sa che l'operazione non è semplice. Quindi. Comunque sta di fatto che oggi pare, stamattina, si vedranno Letta e Renzi, qua è inutile legare, dai giornali si parla, guardate il titolo del Corriere della Sera, ecco qua, me lo son perso, cioè, il governo Renzi è vicino. Repubblica, Renzi Premier, sfida finale con Letta, anche per Libero, nelle mani di Renzi, il fatto arriva il governo Renzi, che dobbiamo fare? Cari italiani, vi siete svegliati ieri col governo Letta, anche oggi col governo Letta, ma pare che possa finire la settimana in un altro, sarà una settimana decisiva a questo punto, Paola Saluzzi, questo dobbiamo sarà la settimana decisiva, allora, a proposito, legge elettorale? La legge elettorale, no? Ma certo, mi hai rubato le parole di bocca. In tutto questo la legge elettorale è slittata di qualche giorno, state tranquilli. Dopo Sanremo. Dopo, no, di qualche giorno, che tra l'altro anche quella o si fa entro lunedì oppure, Luca, Sanremo sospende tutto per una settimana. Niente, niente, neanche la prossima avremo la legge elettorale. Vabbè, che dobbiamo fare? Vogliamo sentire... Letta. Oggi, ecco. Oggi abbiamo cose molto importanti da dire. Già abbiamo lo so. Cose molto importanti da dire tantissime persone che sono in ascolto. Oggi abbiamo cose importantissime da comunicare. Già lo so, mi sono preparato, stai tranquilla, mi sono preparato. Fatemi sentire questa di Letta, che allora insiste e poi cambiamo argomento. Questo programma di governo, vedrete, è un programma di governo che è convincente, io sono convinto che convincerà tutti i partiti che oggi sostengono il nostro governo, compreso il Partito Democratico. Ecco, insiste, vedi, allora Lucadini che non molla, dice... Io non credo che sia ancora proprio scritta la cosa. Però Dici? Pensa se Renzi bussa a Palazzo Chigi e quello si chiude dentro. Boom, boom, no. Boom, boom. fatemi entrare! E lui niente. Vabbè, Alino. Io non lo so se voi credete al complotto, no, del 2011, secondo me, insomma, che adesso non lo so. Poi qualsiasi cosa dici qua, vieni accusato di essere di una parte o l'altra, ma non me ne frega niente in realtà. Mi sembra un po' assurdo, però l'unica cosa che mi ha trovato straordinaria è stato Crozza ieri che imita Alan Friedman, il politico americano, che dice parla come olio e noi abbiamo le sorti del paese di uno che parla come olio. No, un grande giornalista, per carità, Alan Friedman. Comunque oggi Renzi e Letta si sono visti a Palazzo Chigi. Cosa si siano detti non lo sappiamo ancora. Lo scopriremo nel prossimo libro di Alan Friedman. Porca puttana, un signore che pare così. Ma è possibile che se vogliamo sapere come sono andate le cose in questo paese dobbiamo affidarci a uno che parla come olio? Paola Saluzzi, no, ma massimo rispetto per Friedman, ma la battuta per Friedman fa il paio con questa battuta, un piccolo quadro che ho trovato ieri sul foglio, sì. Molto carino, che dava tutte le prossime indicazioni. Allora, nel libro del 2014 si racconta ciò, nel libro del 2015 quindi facevano poche righe, fantastico. Ma della futura storia dei libri di Friedman, ha colpito a fondata. Non male. Allora, io vorrei introdurre questo argomento molto delicato che tratteremo tra l'altro alle 8:15. Riguarda intanto una ragazza di 14 anni che si è tolta la vita. Questo già rende la pesantezza e la delicatezza dell'argomento. Questa ragazza si era affidata a questo social Ask FM, che pare vada molto in voga e sia molto in voga tra i ragazzi. E oggi i giornali raccontano, non è la prima volta, non è il primo ragazzo, sono almeno sette adolescenti che si sono tolti la vita dopo che avevano frequentato, per carità, senza mettere per forza un nesso, però dopo che avevano frequentato questo social. Oggi c'è anche uno straordinario articolo di Gabriele Romagnoli, firma che, caro Luca, tu conosci bene, visto che firma anche di Vanity Fair, su questo social. Allora, la domanda è sempre la solita: chiudere, non chiudere? Anche Gabriele Romagnoli dice la rete è come appunto una rete, copri un buco e si apre un altro buco, non è che si può chiudere, però verrà un momento in cui dovremo chiederci che fare di fronte a questo proliferare di social che anche un po' incontrollati. Tu, Luca, che ne pensi? Beh, questo social in particolare è terrificante perché non è incontrollato, nel senso che chi lo gestisce, non mi ricordo più, è una da Lituania, mi pare, non ha nessun tipo di controllo e di vigilanza, e se uno ci entra dentro, io ho provato a farlo, è spaventoso. Sì, perché si può fare tutto in anonimato, questa è la caratteristica, no? Sì, si possono lasciare... Il livello di aggressione e di cattiveria che c'è dentro è spaventoso. Ma devo dire, aggiungo io, è una cattiveria anche, se vuoi, adolescenziale, cioè sappiamo che a quell'età è facile purtroppo dire ammazzati, ucciditi, cosa ci fai al mondo, no? E perseguitare le persone, purtroppo è così, insomma, sono ragazzi, dispiace dire, ma la frase... Sì, solo che la vecchia cosa adolescenziale diventa una platea mondiale, poi c'è il vantaggio di poterlo fare nascondendosi, appunto, senza far vedere nemmeno la tua faccia, quindi Ma è terribile. E poi tutto rimane. Ed è molto delicato. Paola, tu che ne pensi di questo tema molto molto delicato? Guarda, oltre a pensare che sono stati i genitori a ritrovare questa ragazza, che sarebbe stato uguale l'avesse ritrovata la polizia o i carabinieri e poi chiamati i genitori, però l'hanno trovata loro. E penso che l'unica strada, senza negare la possibilità di navigare appunto in quella rete, che come adesso leggeremo ovviamente in questo articolo, come fa la TV da una parte, comunque la rete è bucata, quindi non controlli, sia da parte dei genitori, da parte dei più grandi, da parte di chi sta vicino a questi ragazzi, sembra banale quello che dico, parlare. Io molti anni fa ricordo un tentativo di suicidio che per fortuna non riuscì, di un mio compagno di giochi, diciamo così, comunque eravamo coetanei, lui andava in un altro liceo rispetto al mio, che per disperazione, per non riuscire a dialogare con gli altri, per tristezza, ha approfittato dell'uscita dalla lezione, è andato nel bagno e si è gettato dalla finestra. Oggi è un uomo che vive, ha una famiglia. Quando noi tutti siamo andati intorno a quel letto d'ospedale, scusate, me lo fate dire, ci siamo sentiti una merda, tutti noi ragazzini, che l'avevamo schernito, che l'avevamo capito, poi non gli avevamo dedicato abbastanza tempo, continuavamo a essere cattivi con lui, diffondo la colpa su tutti, la spalmo su tutti quanti noi, certo, su quel piccolo gruppetto, ma ci siamo sentiti una merda davanti a quel letto. Ma lo so, il problema è il dialogo, è sempre la base. Dialogare e dialogare, a volte è possibile di dialogare. A volte purtroppo da dire, senza dare una colpa, però l'aggressività di questi strumenti è un'aggressività che da genitori, lo dico, fa abbastanza paura. Andiamo a sentire le informazioni sul... Caso, sì. Dimmi Luca. Francamente io credo che prima o poi, siccome non è la prima volta, in Italia se ne parla ogni tanto, ma all'estero è la stessa cosa, io credo che lo chiuderanno e faranno anche bene. Lo so. Perché è anche un segnale da dare, no? Certo, il problema, come scrive Romagnoli, è che ne nascerà un altro, anche dovessero chiuderlo. 24 mattino. Ciao Milan, innanzitutto sono un tifoso milanista come te, ma comunque va bene. Ascolta, io sono indignato un po', Mastro Pasqua si è dimesso lui, cioè su invito di Letta si è dimesso, ma in qualsiasi altra azienda sarebbe stato licenziato in tronco il nostro garante delle pensioni. Io sono d'accordissimo con la decisione della Svizzera per limitare gli afflussi degli stranieri. E poi anche che finalmente c'è un posto dove mettono in pratica i referendum che fanno. Qua ogni volta si fa un referendum ma poi viene seppellito per ragioni di opportunismo. Che bischero Monti, che bischero, proprio un bischero. Ci vediamo Milan, buongiorno. Io vorrei sapere perché stiamo facendo tanto chiasso intorno a questa decisione svizzera. Loro ancora non si sono abituati a vedere la gente dormire per strada, sui cartoni. Noi facciamo entrare tutti, ma che fine facciano dopo? Non interessa più a nessuno. Loro sono abituati ad accogliere quelli ai quali possono dare dignità. E allora non ci scandalizziamo. Allora vorrei dire ad Alan Friedman, se non aveva nessun altro posto, deve andare a scaricare la spazzatura. Ne abbiamo già abbastanza, siamo nel 2014, andiamo oltre. Renzi dovrebbe prendersi ora le sue responsabilità, voleva prendere la poltrona di Letta, no, adesso vado a governare, perché gli italiani sono stanchi di buoni comunicatori, vogliono i fatti. Milan, sei un pazza di te. Mi togli lo stress. Oh mamma mia, ragazzi. Cara Paola, mamma mia ragazzi. Va bene Paola, Saluzzi, è il tuo momento. Cosa devo dire? Oh, io allora, ecco, eccolo momento. Qua. Eccolo a qua. Tutti, posso mettere una base? Però aspetta, posso mettere una base? Sì, certo. Ecco, certo. Perché sono già in casa tua. Sono i violini, dai, vai. Molto bene. A tutti coloro che ci stanno ascoltando e a tutte coloro che ci stanno ascoltando. Oggi abbiamo un appuntamento, il più importante, in libreria. Dovete andare a cercare questo libro che è blu. C'è una bellissima ragazza con occhi blu in copertina e c'è scritto Wondi, Wondi come l'abbreviazione di Wonder Woman. È uscito finalmente il libro del blog della nostra Wondi che racconta come diventare supereroi e sconfiggere il cancro. Allora non è un libro salvifico, non è un libro che faccia il miracolo, purtroppo per quello non siamo noi a poterlo fare, però è un libro che cambia l'idea della vita quando questa malattia ti colpisce e la fa diventare una vita da combattente, quale Wondi è, accanto a persone che ti amano, accanto a persone che tu scopri di amare, accanto ad una malattia che tu puoi sconfiggere anche ridendo. Questa formidabile, splendida, eccezionale donna Francesca Del Rosso, bella come il sole, che ha saputo e sa combattere questa malattia, ha scritto un libro. Per favore, compratelo, regalatelo, regalatelo alle persone negli ospedali, leggetelo se questa malattia non vi ha mai toccato, perché saprete come impostare la vostra vita in un altro modo da domani mattina. Che devo per dire favore, adesso? Per favore, per favore. Paola, dovrei aggiungere un piccolo particolare, lo vuoi dire tu? Perché, cioè, perché se lo voglio dire io? E dillo tu, allora, perché a questo punto... Francesca Del Rosso è la compagna e moglie di Alessandro Milan e nel libro troverete scritto come accanto ad una donna che sa che cosa voglia dire combattere il cancro raccontandola a bambini i suoi, anzi i loro di 4 e 2 anni accanto ad una donna straordinaria così c'è un uomo straordinario Luca aiutami tu cosa devo dire cosa devo è quello strepitoso grandioso direttore doppi violini Vanity Fair è tutto un gruppo, veramente andate, comprate questo libro perché cambia le vabbè, cose. Insomma, dovevamo fare, Luca, di qualcosa anche te, non ti metto i violini, ti dico solo un grande grazie, ti mando un grande abbraccio. No, non mi devi ringraziare, anzi sono io che ringrazio te, Francesca, il libro è bellissimo e come diceva Paola è per tutti. Non è soltanto per chi ci è passato, per chi ci sta passando, ma è una lezione di vita ed è soprattutto divertente. È importante e quanto resto che dire? Niente, basta. No, sai che cosa dire? Scusate, lo posso dire? Quando la gente si lamenta a volte del nulla, abbiamo tanti motivi per lamentarci, raccontiamo una crisi che è diventata una tenaglia con mani attorno al nostro collo, ma a volte ci lamentiamo anche del nulla. Allora, per favore, leggete questo libro, scritto da una donna con le palle, che sa che cosa voglia dire affrontare i veri problemi, lo sa fare ridendo, perché le chemie avventure di Wondi le abbiamo lette tutti sul blog, aperto grazie al direttore di Vanity Fair, Luca Dini, ma leggete questo libro e vi passano i 5 minuti storici. Allora, no, io vi ringrazio anche con un certo imbarazzo. Devo dire, la copertina invece di Vanity Fair, visto che è su Sanremo, perché Sanremo è Sanremo, caro Luca, quindi sarà tutto risolto entro lunedì. In un modo o nell'altro sarà tutto risolto entro lunedì, perché poi c'è Sanremo. È perfetto. Vi ringrazio, grazie davvero Paola Saluzzi, che troviamo oggi alle 15 Sky TG24 pomeriggio, e Luca Dini con il numero di Vanity Fair. Alla prossima giornale radio. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui, cari ascoltatori, siamo pronti a leggere i giornali, sono le 7:18, razza di debosciati, come dico sempre, simpaticamente parlando, che ci fate lì, ancora inerti, improduttivi, abbandonate le vostre colazioni e andate a lavorare. Oggi parleremo di che cosa? Questo terribile fatto di cronaca a Cittadella, una ragazza di 14 anni si è tolta la vita e si è parlato molto oggi nei racconti dei giornali, come fosse frequentatrice di questo social network Ask FM, che già è finito in passato nel mirino anche degli investigatori, anche di altri casi di cronaca simili. E parleremo di questo, insomma, del controllo dei social, di come fare, delle preoccupazioni anche dei genitori che hanno adolescenti sempre attaccati ai telefonini, sempre pronti a dire tutto su queste piattaforme. Avremo con noi un magistrato, Fabio Roia, a Milano, si occupa soprattutto della sezione soggetti deboli al tribunale. Avremo una deputata, Elena Ferrara, che è promotrice di un disegno di legge sul contrasto del cyberbullismo. Avremo con noi Selvaggia Lucarelli di Libero, che ne ha scritto nei giorni scorsi. Questo dalle 8:15, ora andiamo a sfogliare i quotidiani. Questo mercoledì 12 febbraio, intanto i titoli, l'apertura del Sole 24 Ore è sulla neopresidente Yellen che ha parlato al congresso, presidente della Federal Reserve, la Fed aiuterà la crescita, questo è il titolo di prima pagina. Ma poi, cari ascoltatori, insomma, ormai sembra che il dado sia tratto. E cioè, nonostante le resistenze di Letta, dovete vederlo proprio come un vero e proprio duello in questo momento, pare che il governo Renzi sia più vicino. Letta resiste, ma il governo Renzi è vicino, questo è il titolo del Corriere della Sera. Per Repubblica, Renzi Premier, sfida finale con Letta. La Stampa, Letta-Renzi, lo scontro finale. E poi c'è una foto di Letta e Alfano che ridono sul giornale, non ridono più. Questo è il titolo. Il Fatto Quotidiano, arriva il governo Renzi, ma Letta, chi lo caccia? L'Unità, Letta non cede, Renzi nemmeno. Insomma, tutti i toni da duello vero e proprio. Nelle mani di Renzi, questo è il titolo di Libero. Il Secolo XIX, Letta Renzi, resa dei conti. Avvenire, governo sotto pressione. Il Messaggero, Letta in bilico, Renzi è pronto. Vedete tutti i titoli declinati sulla possibile staffetta di governo. Davvero siamo al momento, lo dico io, tenetevi forte, decisivo, proprio quando siamo nel corso, tra l'altro, della 41esima settimana decisiva per la riforma elettorale, che invece è slittata di qualche giorno, state tranquilli. Siamo anche nel pieno della 41esima settimana decisiva per l'abolizione delle province, questo lo ricordo come dato di fatto. Allora, però io voglio partire appunto dai tanti articoli che trovate sulla vicenda che approfondiremo alle 8:15, non tanto approfondiremo la vicenda di cronaca sarà uno spunto per parlare di quello che è il controllo o come gestire l'utilizzo dei social network da parte degli adolescenti, tanto che ieri, cioè domenica scorsa e oggi sui giornali ne parlano tutti i quotidiani con commenti un po' soliti, il solito cliché, chiudere, non chiudere questi social, controllare, non controllare i genitori, i figli, quello che scrivono su questi social. Insomma, la vicenda di cronaca però è terribile, una ragazzina di 14 anni a Cittadella in provincia di Padova si è tolta la vita. Lo ha fatto dopo che era su questo sito Ask FM, come racconta Giusy Fasano sul Corriere della Sera, e l'articolo di cronaca forse più dettagliato. Cerca aiuto online, fai schifo, muori, suicida a 14 anni. E tra l'altro Giusy Fasano riesce a raccogliere la disperazione dei genitori che dicono: noi non sapevamo niente di tutto questo, si disperano. Dove ho sbagliato? Dove? È la domanda che suo padre ripete a se stesso come un disco rotto davanti agli amici. Cosa potevo fare di più e di diverso? Certo, sono andato a fare una passeggiata con gli altri due bimbi, lei è voluta rimanere a casa con la nonna, e se non fossi uscito, se non avessi fatto quella maledetta passeggiata. uno strazio inutile, racconta Giusy Fasano, come il ricordo dell'ultima ramanzina. Mi dispiace tanto averla sgridata, non si era fatta trovare l'appuntamento con sua madre e ci eravamo preoccupati. Poi questo padre che racconta, so bene che a quell'età è facile fare errori, finire sulla strada sbagliata. Volevo il suo bene, ma non volevo inutili conflitti. Così ogni sera, mentre lei dormiva, controllavo i messaggi sul suo cellulare e guardavo il suo diario o nel suo zainetto. Lo facevo per proteggerla. Quindi questo padre che dice anche di nascosto andavo a cercare di capire dei segnali, a cogliere dei segnali, ma dice mai ho trovato una frase, mai ho trovato un indizio per capire quanto amnesia, così si firmava questa ragazza sul social network, fosse sull'orlo dell'abisso. Il dramma poi nel dramma è che ha lasciato un biglietto e i propri genitori l'hanno trovata priva di vita. La insultano sul web, suicida a 14 anni, questo è il titolo anche del Messaggero. Fai schifo, ucciditi, e a 14 anni si butta dal tetto, questo è il titolo del Fatto Quotidiano. Mentre Repubblica fa due pagine dedicate a questo, anche con i dati sul cyberbullismo. Il bullismo è anonimato anche tutti contro Ask.fm, il sito dei ragazzi che terrorizza i genitori. Repubblica scrive con Riccardo Staglianò questo attacco molto polemico. Già 9 gli adolescenti che si sono tolti la vita dopo gli insulti sul social. A questo proposito, l'articolo più interessante sul tema, l'articolo che fa riflettere, è di una grande firma, Gabriele Romagnoli, in prima pagina di Repubblica, che scrive sotto il titolo Il branco virtuale. Se una ragazza di 14 anni si uccide buttandosi dal tetto, di chi o cosa è la responsabilità? Della sua fragilità mentale? Di chi l'ha incitata a farlo dietro il lurido velo dell'anonimato? Di due fratelli lettoni che tra tante cose che potevano inventare hanno creato un social per adolescenti dove ogni cosa può essere detta senza lasciare firma? Partiamo dall'ultimo fattore, il sito Ask.fm. Lo hanno creato i fratelli Tarabin. Ha un'utenza quasi esclusivamente compresa tra i 13 e i 18 anni e una particolarità. Chi risponde alle domande immesse sul profilo lo può fare in maniera totalmente anonima. La differenza tra un post firmato anche con pseudonimo e un anonimo è la stessa che correva tra una lettera con o senza mittente. Ora, internet è la più grande fonte di libertà creata negli ultimi 50 anni, nonché di idiozia. È il vaso di Pandora che ha scatenato le pulsioni migliori, cambiamo il sistema, e le peggiori, ucciditi, inutile grassone. A spostare l'ago dal primo al secondo uso è la progressiva assenza del filtro. Creare un sito che ne rifugge era un'idea evitabile. Poco prima di scrivere quest'articolo, seduto su una poltrona d'aereo nell'indolenza di un viaggio intercontinentale, ho guardato un documentario sull'invenzione del cellulare. Tra i momenti chiave si risaliva la scoperta di Hedy Lamarr, attrice austriaca fuggita dal marito e dal nazismo. Considerata a quel tempo la donna più bella del mondo, era anche una scienziata. Osservando il movimento dei tasti del pianoforte, inventò il salto di frequenza, che è usato inizialmente per fini militari alla base delle comunicazioni satellitari. Ora, non so se i fratelli Tarabin siano bellissimi, né che cosa pensino del totalitarismo, ma ci sono creazioni volte al bene, altre inutili e altre ancora che possono fare soltanto del male. Lo si intuisce al volo, non occorre sperimentarle. Ask.fm è tra queste ed era chiaro prima che i fatti lo dimostrassero. A dire che certi spazi nella rete andrebbero tappati si è tacciati spesso di liberalismo, per lo più da persone che si esprimono in forma anonima o con pseudonimo. Eppure, se la risposta alla domanda a cosa serve è a eccitare istinti malvagi, le conseguenze non dovrebbero essere in discussione. Dopodiché la rete è una rete, tappi un buco e se ne apre un altro. Insomma, così Gabriele Romagnoli, il branco virtuale, ripeto, ne discuteremo alle 8.15, certo, sotto accusa questo Ask.fm, è vero, come dice Romagnoli, che è la rete, appunto, e quindi copri un buco e se ne apre un altro. Sta di fatto che la problematica anche per molti genitori preoccupati che ci scrivono e dicono per l'utilizzo di questi social e per sapere cosa fare, come fare per tutelare i propri ragazzi, certamente c'è. Che dire a proposito di social in maniera più leggera, molto più leggera? Sappiate che il Corriere della Sera racconta pagina 23 con Alessio Ribaudo e Elvira Serra come i divieti dei comuni siano sempre per i propri dipendenti, quindi parliamo di dipendenti pubblici, siano sempre più stringenti. Hanno varato vari comuni codici di comportamento per i propri dipendenti perché hanno recepito una legislazione, un decreto del Presidente della Repubblica, e allora Corriere della Sera va a spulciare un po' tra i vari divieti. Vietato sparlare dei colleghi, vietato dare una sbirciata a Facebook e Twitter dal proprio smartphone, vietato dir male del sindaco, vietato prendere il caffè al bar, vietato criticare l'amministrazione sui social network. Sono alcuni dei divieti, no? Sanremo, per esempio. A Sanremo il dipendente non può diffondere informazioni e far commenti voluti a ledere l'immagine e l'onorabilità di colleghi superiori gerarchici dell'amministratore o dell'ente in generale. Si può sparlare male, insomma. Non si può sparlare dei colleghi. Poco più in basso, tra l'altro, i dipendenti a Sanremo non possono accedere alle sale slot e alle sale da gioco del casinò municipale se non per ragioni di servizio. Ah, non potete, cari dipendenti del comune di Sanremo. A Ravenna incorre in una sanzione disciplinare chi critica l'amministrazione sui social network anche se sul profilo privato. Ah, a Napoli bocche cucite con la stampa, il codice però è ancora una bozza, e niente regali. I dipendenti del comune di Napoli non possono ricevere regali del valore superiore di 150 euro, mentre a Genova, si sa, sono genovesi, 100 euro, il limite è posto un po' più basso. Vabbè, queste regole, soprattutto con restrizioni su internet, le trovate sul Corriere della Sera, come i comuni si tutelano nei confronti dei propri dipendenti. Che dire, cari ascoltatori, ripartiamo tra un attimo dopo la pubblicità e il gran piatto del menù è questo: la politica. Allora, Renzi al posto di Letta, la dovete immaginare così, come un duello, solo uno dei due vivrà, politicamente parlando, a Palazzo Chigi, e la sensazione è Renzi preme e quell'altro non demorde. Alessandro Mila, lo sciamano dell'informazione. Lo sciamano, ma che è il guru, lo sciamano. Sono qua alle 7:34 minuti. Sono straordinarie queste siglette, mandate la vostra nella nostra segreteria telefonica 02469, no, qual è il numero? 02 adesso 46, sì, vabbè, 4652 è giusto l'inizio, sì. Allora ci siamo, siete pronti? Giocatevele poi il terno all'otto. 4652 4492, lo 02 ovviamente, 02 4652 4492, se ci avete capito qualcosa beati voi. Vabbè, comunque la nostra segreteria telefonica. Allora, dovete immaginare quello che sta succedendo in queste ore attorno a Palazzo Chigi a Roma come un duello vero e proprio, almeno così lo descrivono i giornali. Letta che dice non mi dimetto, io rimango qui, se devono sfiduciarmi devono farlo in modo aperto, chiaro, farlo sapere al paese. Vi ricordate? C'era Prodi che diceva, faceva gli stessi discorsi poi quando fu sfiduciato in Parlamento qualche anno fa nella sua legislatura nel 2008. E Renzi invece che sembra convinto, convintissimo ormai dai suoi a dire il dado è tratto, devo prendere questa occasione, andare a Palazzo Chigi. La neutralità di Napolitano è sintetizzata almeno in questo titolo del Sole 24 Ore. Lina Palmerini, che lo sta seguendo a Lisbona nel suo viaggio di capo dello Stato, Napolitano neutrale, parola al PD. Ecco, la battuta è questa di Napolitano sul governo: mi pare che ora la parola stia al PD. Per Lina Palmerini basta questa frase rilasciata ai cronisti che lo aspettavano per capire quale sia il percorso istituzionale che ha in mente Napolitano, è quello di lasciare la parola al partito di maggioranza relativa che ora ha in mano le sorti dell'esecutivo e della legislatura. Dovrebbero vedersi Renzi e Letta questa mattina. Letta però, come titolano il Messaggero a pagina 3, io non mi dimetto, il segretario si comporta come D'Alema con Prodi. Oggi l'estremo faccia a faccia col sindaco, dice Letta, se vuole il mio posto, mi sfiduci nella direzione del partito. E tra l'altro Letta ha fissato la conferenza stampa per lanciare il patto di coalizione, dunque oggi va avanti come se nulla fosse. E sono chiaramente bracci di ferro della politica, come dire, io vado avanti, sono il premier in carica e quindi dice io non ho problemi e vado avanti col mio patto, il mio patto di governo. L'ira di Letta è anche per l'Unità, pagina 3, non mi dimetto e respingo i giochi di palazzo. Ninni Andriolo racconta, pagina 3, come il premier abbia detto a Napolitano io vado avanti. Dall'altra parte però, in un impazzimento generale, in un'improvvisa accelerazione di questi giorni, alcuni giornali si spingono già a dare il toto ministri di Matteo Renzi. Leggete pagina 3 del Corriere della Sera, Maria Teresa Meli, che è sempre molto attenta a quello che succede attorno al mondo di Renzi. Ministri e giuramento, ecco la corsa del segretario, il gelo con Palazzo Chigi. Secondo il Corriere della Sera addirittura Renzi vorrebbe diventare premier entro la settimana e giurare entro domenica o al massimo entro lunedì. Battuta mia, ma chissà se è una battuta. E certo, poi inizia Sanremo, e che sospende tutto, bisogna fare in fretta. Volete che in mezzo alla settimana di Sanremo ci sia una crisi di governo? No, non sia mai. Quindi bisogna fare prima. Comunque, racconta il Corriere della Sera, pagina 3, che Renzi diceva ai suoi e dice ai suoi: ho i numeri in Parlamento, è fatta, avrebbe detto questo incontrando Bruno Tabacci, è fatta, c'è un unico vero problema, come garantire un'uscita di scena onorevole a Enrico Letta. E allora Tabacci gli ha risposto: fai come noi democristiani in questi casi risolvevamo la questione con l'offerta del Ministero degli Esteri. E beh, io l'ho detto sempre, anche questo come battuta, che mi sembra di vedere la DC al governo, no, da un po' di tempo. E forse siamo alla certificazione di questo, anche se Antonio Polito, in prima pagina del Corriere della Sera, fa un editoriale proprio su questa stregua a dire: il congresso del PD, cominciato subito dopo la sconfitta elettorale, non è finito. Il partito di maggioranza relativa, ma senza una maggioranza, ha così esportato sulle istituzioni le sue convulsioni interne. Ma scrive Polito, spiace dirlo, ma il paragone con la DC non è appropriato. La DC era in grado di garantire la governabilità nonostante le sue divisioni, al PD invece è finora accaduto l'opposto. Ciò che gli italiani hanno capito è che Renzi vuol fare il premier e che Letta non vuol cedergli il posto, ma nessuno ha capito cosa il governo Renzi, in cosa potrà essere diverso, oltre che quell'energia cinetica del premier, che pure non è poca cosa. Dov'è quel contratto di programma promesso entro un mese? Il Jobs Act è qualcosa di più di una conferenza stampa? Il nuovo premier disporrebbe forse di una maggioranza parlamentare più ampia? E su questa della maggioranza parlamentare, in realtà, Mario Aiello fa i conti sul Messaggero in prima pagina. E secondo i conti che Matteo Renzi sta mettendo a punto quotidianamente con Angelino Alfano, vice premier di Letta, tanto che, racconta Mario Aiello, Alfano circola con questa battuta: mi accarezza la coscia come se mi corteggiasse. Alfano dice di Renzi, questo secondo le descrizioni del Messaggero. Ebbene, avrebbero fatti i calcoli e secondo Mario Aiello, come detto sul Messaggero, il titolo è: Matteo blinda al Senato la maggioranza a quota 194. Ecco, questi sono i numeri di cui puoi contare Renzi, perché ci sono ovviamente il PD, il nuovo centrodestra, i 31 senatori diversamente berlusconiani, come li ha definiti Alfano, e poi i 108 del PD, i 10 grillini dissidenti: Battista, Orellana, Campanella, Fucsia, Casaletto, Bocchino, Bignami, Cotti, Pepe, Romani, questi sono i nomi dati dal Messaggero, i 12 del gruppo delle autonomie, 13 del gruppo misto, di cui 7 sono di Nichi Vendola. Totale 194 voti, questi secondo i conti a spanne, pallottoliere che oggi trovate sul Messaggero. Detto dei toto nomi invece, siamo già i toto ministri per alcuni giornali. Per il Corriere della Sera, Renzi ha già la sua squadra: Graziano Del Rio, ministro dell'Interno; Andrea Guerra, amministratore delegato di Luxottica, all'economia. Oppure all'economia si fa il nome anche di Piercarlo Padoan e di Lorenzo Bini Smaghi. E poi Fabrizio Barca alla coesione territoriale. Lo stesso anche Repubblica fa i nomi. all'interno Del Rio oppure Franceschini, Alfano rimarrebbe vice premier, al lavoro potrebbe andare Epifani, agli esteri o Letta, democristianamente parlando, secondo il suggerimento di Tabacci, oppure rimane Emma Bonino, alla giustizia via la Cancellieri e dentro Vietti, alla difesa Roberta Pinotti o Federica Mogherini. All'economia anche qui si fa il nome dell'amministratore delegato di Luxottica Guerra, alla cultura Baricco, un altro amico di Renzi. Insomma, non stiamo forse esagerando con il toto ministri, cioè vendere la classica pelle dell'orso prima di averlo come minimo acchiappato, tanto che lo stesso Massimo D'Alema scrive una lettera al Corriere della Sera rievocando, visto che si è fatto il parallelismo con il 98, il momento in cui lui sostituì Prodi, Massimo D'Alema, io dopo Prodi, un errore, ma quante menzogne. Scrive una lettera a Massimo D'Alema, che non è proprio casuale nella tempistica di questi giorni, racconta quella vicenda, la racconta nel dettaglio e la definisce così: sostituì Prodi, ma fu un errore. Così Massimo D'Alema, perché diede una percezione distorta all'interno del paese. Oh, caro Giuseppe Chiellino, tu che dormi sonni tranquilli, buongiorno. Buongiorno Alessandro. Qui ti cambiano il governo di colpo, ma che succede? Oggi sui giornali sembra già col toto ministri Renzi, siamo all'impazzimento. Ti stavo ascoltando, non avevo fatto ancora in tempo a leggere gli altri giornali. Hai capito, puoi anche candidarti per un sottosegretariato. Comunque, assolutamente detto questo, che troviamo invece sul Sole? Per il bene del paese. Ovvio. Allora, sul Sole, come avrai già visto, noi dedichiamo invece l'apertura al primo intervento pubblico ufficiale della nuova presidente della Federal Reserve, Janet Yellen, che ha confermato, era un intervento molto atteso dai mercati, ma nella sostanza ha confermato la linea di politica monetaria dei suoi predecessori, del suo predecessore Bernanke in particolare. Sì. E in particolare non ridurrà, continuerà la lenta riduzione degli stimoli monetari. Questo significa una serie di cose per i mercati e per i risparmiatori, per cui noi, oltre che spiegare il discorso, raccontare il discorso, fare la cronaca, spieghiamo anche ai risparmiatori come si devono comportare. Quindi abbiamo una pagina di bussola che spiega quali saranno le conseguenze sui mercati per le azioni, per le obbligazioni, per l'oro, per le valute e poi un approfondimento sull'oro per cercare di capire se questi aumenti delle quotazioni negli ultimi giorni, dopo il crollo dei mesi scorsi, sono un piccolo rimbalzo oppure qualcosa di più. Certo. Ecco, no, infatti io ho letto le notizie di politica, ma chiaramente c'è anche altro, certo. Perché siamo tutti fossilizzati adesso su quello che succede nella compagine di governo, per carità è importante, però non è chiaramente l'unica notizia. E poi qualcosa di taglio diverso? Come sai, noi cerchiamo sempre un po' di distinguerci dal resto dei giornali, altrimenti non avrebbe neanche molto senso, siamo un giornale, cerchiamo di essere diversi dagli altri. Ecco, poi sulle altre cose, secondo me è molto interessante una notizia che riguarda molti piccoli imprenditori. È stata firmata una circolare sulla Sabatini bis, ma la maggior parte degli ascoltatori forse non dirà nulla, ma in realtà si tratta di una legge che concede finanziamenti agevolati a tutte le piccole e medie imprese, che in Italia come sai sono tantissime, che vogliono fare investimenti per acquistare nuovi macchinari, nuove linee produttive. Anche questo è un provvedimento molto atteso, si tratta di un provvedimento che c'era già stato in passato, aveva prodotto effetti molto positivi sulla nostra manifattura, sia a valle, diciamo, appunto per le PMI che investono, sia a monte, cioè per quelle imprese che producono questi macchinari, certo. E l'Italia ha un primato mondiale nella produzione. No, ma è chiaro, un vademecum importante per tutte le piccole e medie imprese. Esatto. Giuseppe, io ti ringrazio, l'Inter ieri in Coppa non c'era, no, voi in Coppa non ci siete. Va bene, ti ringrazio. Per la Coppa Italia, o sbaglio? Sì, ma neanche lì noi siamo per la Coppetta. Va bene, grazie molte, ciao, ci troviamo ciao, domani, Alessandro. Ovviamente è il momento del traffico e poi rientriamo. Alessandro Milan, il Barisoni. delle informazioni. Grandissimo il nostro vice direttore Sebastiano Barisoni, eccolo qui, avete qua il Barisoni delle informazioni. E, che dire, allora avete visto, tra l'altro, per quel che riguarda la politica e i processi, e i processi, beh, notizia che riguarda invece Silvio Berlusconi, continua il processo a Napoli sulla presunta compravendita di senatori, il senatore De Gregorio, dico del plurale i senatori, perché adesso secondo i magistrati si è allargato anche il fronte, nel senso che sarebbero almeno 10 i parlamentari attenzionati per una possibile compravendita di Berlusconi quando ci fu il passaggio, no, la caduta del governo Prodi. Secondo almeno altri 10 parlamentari sono stati corrotti da Berlusconi, questo è il titolo per esempio della Stampa con Guido Ruotolo, oppure torna il big match. Beh, questa è un'altra cosa, una vicenda nella vicenda. Chi ha fatto l'avvocato di parte civile nel processo a Berlusconi, trovandosi di fronte all'avvocato difensore di Berlusconi, Ghedini? Chi l'ha fatto? Antonio Di Pietro. Io non lo sapevo, accidente, ieri l'avevamo in onda qui alle 6.30, gli avrei chiesto, avvocato, cioè si è rimesso la toga, ma non da magistrato, da avvocato di parte civile, quindi ha fatto la sua arringa. Chiaramente il fatto mette le foto a pagina 6 di quando era avvocato, di quando era pubblico ministero negli anni 90, e adesso invece con la toga da avvocato. Antonio Razzi, evidentemente lui che fu scelto da Di Pietro per metterlo in Italia dei Valori, non capisce molto bene la differenza tra avvocato e pubblico ministero, fa un'intervista a Carlo Di Foggia sul Fatto Quotidiano e vabbè, dice, vabbè, ma Di Pietro che indossa la toga, ma è normale tutto questo? Ma dica onorevole, cosa c'è? Sì, c'è l'aspettativa, chi diventa parlamentare per me deve lasciare il posto di lavoro agli altri, io mi sono licenziato. Ma Di Pietro non è più parlamentare. Ma sì, ma è tornato a fare il magistrato. Ma no, guardi che è avvocato. Vabbè, io non lo so il funzionamento di queste cose, l'ho conosciuto che era magistrato. Ecco, vabbè, Antonio Razzi non sa manco la differenza tra avvocato e magistrato, e quindi dice, non so la differenza, non riesco a capire il funzionamento di queste cose. E va bene così, allora. E certo, però anche il Messaggero fa una pagina su Di Pietro Zelig, rimette la toga da giustiziere ad avvocato, prima da pubblico ministero, ora avvocato. Mentre anche Stefano Zurlo sul Giornale dedica una pagina a questo: Di Pietro si rimette la toga per tormentare il Cavaliere. A proposito di Berlusconi, come si comporta nei confronti di questa situazione, come si comporta Berlusconi? Beh, si comporta dicendo, la situazione politica, non tanto la situazione del processo, la situazione per Berlusconi è: il Cavaliere preferisce tornare al voto, così almeno titola il Giornale a pagina 4 con Adalberto Signore, e anche Libero. Però su Giornale Libero ci sono due posizioni diverse sulla questione delle riforme, mentre per il Giornale Berlusconi attende Renzi al varco e dice non rinviamo le riforme, per Libero invece il Cavaliere sarebbe pronto a far saltare proprio il piatto delle riforme per quel che riguarda questa vicenda. Vabbè, ma per quel che riguarda la politica, anche su Libero c'è un'altra notizia che mi verrebbe da condire con il classico tenete le mani strette sul volante se state guidando, se non avete ancora abbandonato i caffè bollenti a appoggiate le tazzine, perché Franco Bechis su Libero racconta, pagina 11, l'ennesima vicenda che potrebbe avere dei profili penali per alcuni parlamentari. Casta terminale, cure finte per intascare i rimborsi. Secondo l'accusa di Napoli, il processo è sempre lo stesso, quello di Woodcock, ma con un filone diverso. Sarebbero spuntate delle accuse, sono spuntate delle accuse per rimborsi finti di spese sanitarie inesistenti dal 2008 in poi a un numero non ancora definito di parlamentari, certamente a due deputati del PDL campano dell'epoca, uno dei quali è ancora senatore, Antonio Milo, un altro invece non lo è più, è Marco Pugliese, deputato fino al 2013. L'accusa è: avere inventato una vera e propria cartiera dei rimborsi, cioè una società fisioterapica non più esercitante da anni che rilasciava certificati medici fasulli ed emetteva fatture per prestazioni inesistenti. Questo almeno è quello che raccontano su Libero con Franco Bechis, la nuova indagine di Woodcock per quello che succede. Vabbè. Che dire, trovate anche notizie su la chiusura, cioè Cota in Piemonte ha perso il ricorso e quindi si va a votare. Siamo al momento conclusivo, al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, un lampo solo su Repubblica. Nasce l'idea del selfie, il selfie, mamma mia, il selfie nei musei, gente che va a vedere il David a Firenze e invece di guardare il David si gira, mostra il culo al Davide e si fa il selfie. Ma saranno cretini, ma io non lo so, e ci dedicano una mezza pagina su Repubblica. Ma guardati il Davide invece di dargli le spalle e farti il selfie, no? Mamma mia, vabbè. 24 mattino. Siamo qui alle 8:19 minuti, anzi 8:20 minuti, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, oggi vogliamo parlare di questo tema, che è un tema molto delicato, che coinvolge genitori, adolescenti, coinvolge tutti noi, insomma. Intanto, premessa, parliamoci chiaro: quando una ragazza, in questo caso una ragazza di 14 anni, si toglie la vita, e ci siamo occupati tra l'altro di queste vicende perché nei contesti simili anche in passato, ecco, bisogna andarci sempre con estrema cautela nelle spiegazioni, nelle analisi. Nessuno saprà mai davvero cosa sia passato, quale tempesta di pensieri, emozioni, sensazioni abbia attraversato la coscienza e la testa, il cervello di Nadia, che domenica scorsa si è tolta la vita a Cittadella, in provincia di Padova. Quello che si sa, e oggi su tutti i giornali c'è un'analisi di questo, è che questa ragazza frequentava, come tantissimi adolescenti, da tempo i social network, in particolare uno, Ask FM, che è già finito al centro di polemiche, tanto che il premier britannico Cameron, pensate, ha detto pubblicamente va boicottato. Questo social è un social che funziona così: ci si iscrive, bisogna essere soprattutto adolescenti, si va lì e si fanno delle domande e però in maniera anonima arrivano risposte, ma purtroppo è diventato nel tempo uno dei luoghi di sfoghi anche di insulti, di aggressioni verbali. Nadia era finita per esempio in una serie di questi insulti, aveva detto di essere depressa e, come dire, gli insulti irripetibili che trovate però pubblicati sui giornali, i più teneri, era ucciditi, falla finita, eccetera. Per carità, collegare le cose non è mai facile, però vogliamo discutere di quello che è un tema sicuramente pressante per molti genitori, a dire che fare, controllare, non controllare, limitare i social network, come gestire questo strumento che può essere anche uno strumento pericoloso dalla parte degli adolescenti, che sono sempre attaccati a questi smartphone, a smanettare, a cliccare. Insomma, bisogna capire anche da parte loro, forse dargli degli strumenti. Vorrei veramente chiedere il contributo degli ascoltatori oggi, 800 24 00 24, e vorrei iniziare a parlarne con un magistrato, si chiama Fabio Roia, è spesso nostro ospite, giudice alla sezione soggetti deboli al Tribunale di Milano. Buongiorno. Buongiorno, eccoci qua, dottor Roia. Detto che, guardi, alcuni spunti leggendo oggi il Corriere, la cronaca di Giusy Fasano è dei genitori comprensibilmente distrutti di questa ragazza, che dicono addirittura al padre: io andavo a spiare di notte quando dormiva perché non volevo creare conflitti generazionali, conflitti con i figli, andavo a vedere sui diari, cercavo degli, non ho mai trovato nessuno spunto di notizia di quello che poteva poi far presagire a un gesto drammatico del genere. Però intanto, da magistrato le chiedo, il procuratore a Padova ha aperto un fascicolo per possibile istigazione al suicidio, sempre molto rischioso questo tipo di discorso, cioè che parametri si possono usare? Ma innanzitutto questo è un fenomeno, come diceva lei, molto complesso. La semplice repressione non basta, in questo caso è un'indagine, credo, di tipo conoscitivo per capire un attimo quello che è successo, è un caso realmente drammatico. C'è un problema però molto più complesso. Incominciamo a dire che internet può essere un luogo di pericolo. Io collaboro con un'associazione che si chiama Open Eyes, chiama Milano, che lavora proprio sugli studenti. Abbiamo fatto delle indagini nelle scuole di primo e di secondo grado, quindi parliamo di ragazzi con una media di 15 anni, abbiamo intervistato circa 5.000 persone e più del 30% di queste persone è vittima, autore, ovviamente i questionari sono stati anonimi, di cyberbullismo, cioè di atti che vengono definiti di bullismo, ma a volte sono veri e propri reati che vengono commessi attraverso il mezzo di internet. Internet è uno strumento pericoloso per due motivi, perché l'autore rimane nascosto, apparentemente nascosto, e quindi acquisisce una forza maggiore. La vittima si sente più vulnerabile perché non capisce da dove arriva l'aggressione e i testimoni, i cosiddetti testimoni passivi, possono a loro volta inconsapevolmente aumentare il rischio, per esempio propalando queste frasi che istigano alla violenza, all'odio, come in questo caso purtroppo al suicidio. E allora bisogna innanzitutto capire e comprendere, come dire, fare un corso per noi che siamo di una generazione diversa di alfabetizzazione all'uso di questi strumenti. Certo, questo sì, la conoscenza prima di tutto. Vorrei capire che margini di manovra ci possono essere, che tipo di indagine può fare un magistrato per capire se davvero possa essere un'istigazione al suicidio. Beh, innanzitutto bisognerebbe, e credo che lo faranno, capire un attimo questa ragazza, se aveva dei disagi, se erano stati manifestati. Io credo che sia molto importante, per esempio, capire come viveva nell'ambito dell'ambiente scolastico e familiare e capire se in qualche modo questo tipo di attività possa avere inciso su questo drammatico gesto. Evidentemente è un'indagine molto complessa, ma ripeto, siccome non è solo un caso tragico isolato, sono molti i casi. Sicuramente lei saprà, gli ascoltatori sapranno, di molti suicidi che sono avvenuti anche in altri paesi d'Europa, addirittura del mondo, proprio a seguito di questi fenomeni di propalazione su internet, anche di immagini, per esempio, che ritraggono gli adolescenti su base sessuale. Si chiama sexting questo fenomeno. Sì, leggevo un dato incredibile, pare 6 ragazzi, forse addirittura 8 ragazzi su 10, forse 6 su 10, leggevo ieri su un giornale, adesso non trovo qua il dato, ha provato almeno una volta il sexting, appunto, cioè, no? Sì, il sexting, per la verità, sono anche immagini, come dire, innocenti, nel senso che uno magari ha una relazione con un altro adolescente, si riprendono immagini così particolarmente intense, poi la relazione finisce o l'altro adolescente o gli amici di questo altro adolescente trasmettono queste immagini per denigrare la ragazza. Questo ovviamente può avere un effetto devastante. Io ricordo un caso proprio di un processo che abbiamo fatto di una vittima che era stata oggetto di sexting, nessuno era intervenuto, lei aveva sviluppato una vulnerabilità maggiore, tant'è che poi era stata ulteriormente vittima di una violenza sessuale. Ma è chiaro, quindi bisogna stare molto attenti. Molto attenti, questo sì. Voglio salutare anche la senatrice Elena Ferrara del Partito Democratico, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Tra l'altro lei, senatrice, se non sbaglio, abbiamo letto, diciamo, è un insegnante, ho un'aspettativa a questo punto, l'insegnante delle medie, no? È corretto, esatto, quindi ha a che fare molto con i ragazzi, è anche promotrice, sì, da 30 anni con gli adolescenti, è promotrice di un disegno di legge proprio sul contrasto al cyberbullismo. Oggi Gabriele Romagnoli su Repubblica, parlando proprio del caso di questa ragazza che si è tolta la vita a Cittadella, pone questa domanda: se una ragazza di 14 anni si uccide buttandosi dal tetto, di chi o che cosa è la responsabilità? Della sua fragilità mentale o di chi l'ha incitata a farlo dietro il lurido velo dell'anonimato? Di due fratelli lettoni addirittura, che forse hanno tante cose che potevano inventare, hanno creato un social per adolescenti dove ogni cosa può essere detta senza lasciare firma? Ecco, senatrice, prima di parlare del progetto di legge, magari vogliamo dare una risposta a queste domande che Gabriele Romagnoli dà. A chi possiamo imputare una colpa di un fatto così drammatico? Ma guardi, sul problema così del rapporto tra minori e internet, new media, nel nostro social network, il problema della responsabilità è il vero problema. Ed è il problema sul quale chiaramente io credo il mondo adulto si debba subito attribuirsene una grossa parte, nel senso che abbiamo dato in mano uno strumento troppo potente a delle persone, a bambini, perché adesso si parla comunque di bambini 8-9 anni che sono in rete tranquillamente, per adolescenti e a ragazzi, senza pensare di accompagnarli in questo percorso. Quindi il problema è di responsabilità. Credo che il fatto grave che succede a questi ragazzi, come diceva prima il magistrato, debba essere indagato e ognuno ha la sua storia. Io sono un'insegnante che è stata l'insegnante di Carolina Picchio per 3 anni alle scuole medie. e Carolina. Lo ricordiamo, la ragazza di cui, caso di cui ci siamo occupati, quindi lei l'ha conosciuta, è stata... Sono stata sua insegnante per 3 anni, Carolina poi ha fatto il passaggio, quel difficile, criticissimo passaggio tra la scuola media inferiore e la superiore, quindi che è anche un'apertura al mondo, uscire dal proprio guscio e spesso anche lì senza gli strumenti adeguati per poter gestire quel passaggio, come tutti i passaggi sono i più critici, e guarda caso infatti questi ragazzini spesso hanno 14-15 anni e il problema è noi probabilmente li lasciamo anche soli, genitori, l'istituzione scolastica che appunto non cura alcuni passaggi di continuità che danno dispersione scolastica, disorientamento, e probabilmente anche quel contenimento che si riesce a dare all'interno di un contesto scolastico della scuola di base, poi è chiaro, no, per colpa di nessuno, però bene o male qualcuno se ne dovrà far pur caso. Quindi è un problema di responsabilità. Poi sicuramente ci sono i responsabili, mi occupo di cyberbullismo, appunto, non di tutte le problematiche, diciamo, della rete di cyberbullismo. Quindi il problema è che ci sono sostanzialmente dei minori che usano quello strumento in modo vessatorio nei confronti di altri. Sì, certo, minori, c'è da dire che purtroppo anche l'ottica e la mentalità adolescenziale, siamo stati tutti adolescenti, è anche quella di essere un po' sfrontati. A volte non si può neanche colpevolizzare l'adolescente che fa l'adolescente, cioè usa un linguaggio a volte anche aggressivo nei confronti dell'amico, dell'amica, perché essere adolescenti vuol dire anche quella roba lì. Ecco, è un problema di identità, e per crearsi un'identità a volte si ha anche bisogno di fare gruppo contro qualcuno, assolutamente, individuato come diverso. È chiaro, a volte è chiaro. Anche la bella ragazzina, e questo è un dato non che dico io, insomma, è un dato rilevato dalle analisi. Adesso ne abbiamo abbastanza di letteratura, quindi è il momento del fare, perché abbiamo capito, penso che abbiamo capito di che fenomeno si tratti. Ecco, anche la bella ragazzina che magari però si permette di lasciare un ragazzo, il ragazzo si sente offeso nella sua dignità, e a quel punto lei diventa oggetto di vessazione. Altri ragazzi sono gregari, si aggregano, formano i gruppi mettono in rete qualsiasi cosa ed è per sempre. Questo infatti risponde alla domanda da cui voglio ripartire tra un attimo dopo la pubblicità con voi, cioè la senatrice Elena Ferrara e il magistrato Fabio Roia, perché giustamente arriva subito il messaggio di non criminalizzate gli strumenti, cioè gli strumenti utilizzati, non colpevolizzate gli strumenti, ci scrive per esempio Andrea da Milano. Però oggi Gabriele Romagnoli, e questa è la domanda da cui voglio ripartire, in questo editoriale di Repubblica si pone invece questa questione, dice: è vero, la rete è una rete, tappi un buco e se ne apre un altro, quindi non è che si può censurare. Eppure, se la risposta alla domanda a cosa serve è a eccitare istinti malvagi, le conseguenze non dovrebbero essere in discussione. E cioè, Romagnoli si chiede se questo sito, in questo caso Ask FM, è nato ed è nato solo per fare del male, questo di fatto, forse è il caso di pensare anche alla chiusura, alla censura, aggiungendo subito dopo, pur essendo consapevole che la rete appunto copre un buco e se ne apre un altro da un'altra parte. 24 mattino. Eccoci qua alle 8:38 minuti, rientriamo in diretta, siamo con Fabio Roia, magistrato a Milano, con Elena Ferrara, senatrice del Partito Democratico, che ha promosso un disegno di legge sul contrasto al cyberbullismo, adesso ci spiegherà anche di cosa si tratta. Voglio salutare anche, ci ha raggiunto Alessandro Giglioli, che è un collega, un amico, col suo blog Piovono Rane sull'Espresso. Alessandro, buongiorno. Ciao, buongiorno. Io dico anche un po' il mio alter ego tecnologico, quando bisogna di un appoggio tecnologico, no, nel senso, visto che sei un fruitore molto intelligente e conoscitore della rete, questo è anche, oltre che genitore, questa è una delle caratteristiche fondamentali anche per conoscere poi e per affrontare questo mezzo. Allora, le telefonate sono tantissime, vi prego per questo di essere sintetici. Comincerei da Alessandro da Udine. Buongiorno Alessandro. Sì, buongiorno a lei, a tutti i suoi ospiti. Molto sinteticamente, quello che mi preoccupa come genitore in primo luogo è sapere intercettare il disagio dei propri figli. Questo è il primo problema. avere gli strumenti per far aprire i propri figli, farli confidare e poi avere anche gli strumenti per poi poter intervenire. Io penso che poi il problema della rete sia un problema successivo. La rete è uno strumento al quale non si può rinunciare, fa parte della vita di tutti. Sì, certo, può essere limitato, può sì. Insomma, la comprensione e il dialogo, questa è la base. La sintetizzo così il suo intervento e la ringrazio, Alessandro. Andrea Treviso, o meglio in provincia, da Marco. Buongiorno, Marco. Ah, buongiorno a voi tutti. Io non sono un genitore, ma sono un insegnante. E quello che trovo spudoratamente ipocrita è il ruolo degli insegnanti e dei genitori che coccolano ed educano i figli senza pensare che la vita è un confronto intelligente, un confronto dinamico e anche con ironia. Cioè spesso iperproteggiamo i nostri ragazzi senza mettere di fronte delle responsabilità anche da quando sono piccoli. Cioè la scuola, il mondo della famiglia deve educare i figli a capire che c'è il bello e il brutto nella vita, e dove c'è il brutto ci sono mille opportunità di capire dov'è il bello. E allora questo è il problema più grande. La rete è un'opportunità, uno strumento e non va condannato, ma i genitori e gli adulti, chi è interessato ai ragazzi, deve metterli in condizione di combattere, di lottare, di vincere, di competere intelligentemente e di capire che ci sono veramente strumenti ironici per vivere. No, ma è chiaro, il ruolo educativo, ma è chiaro che è fondamentale, Marco, su questo sì. Però io vorrei, dottor Roia, chiederglielo brutalmente, è possibile anche dal punto di vista di questo, competerebbe anche la magistratura, pensare che è vero, come dice Romagnoli, la rete è una rete, chiudi un buco e se ne apre un altro, però ci sono delle cose che, voglio dire, sono lì non per fare del bene, quindi vanno tolte, chiuse. Il Premier Cameron ha detto boicottatelo questo Ask FM, per esempio. No, ma io sono d'accordo, nel senso che se ci sono dei social network o dei gruppi o comunque delle situazioni nella rete che nascono esclusivamente per incitare all'odio, le do un dato, guardi, sempre su questo campione, il 30% di questi ragazzi intervistati ha detto che ha conoscenza di partecipazione di gruppi online che per esempio incitano al razzismo, al nazismo, all'omofobia. È chiaro che questi gruppi vanno chiusi e vanno repressi, però il problema non è tanto della repressione, perché io sono contrario a una società che vieta e che reprime sempre. Bisogna lavorare soprattutto sui ragazzi e sugli adulti, far capire loro qual è il pericolo. Guardi, io molte volte quando vado nelle scuole nell'ambito di questo progetto spiego ai ragazzi che un gesto che loro considerano, come dire, neutro, lecito, è invece molte volte costituisce un reato. Allora vanno sensibilizzati. Non per esempio? Tanto, un tipico esempio? Ma per esempio lo stalking attraverso il mezzo informatico è un reato molto grave, che fra l'altro la recente legge sul femminicidio ha aggravato proprio per l'uso dello strumento informatico. Pensi che solo a Milano i reati a mezzo informatici sono aumentati quest'anno, lo scorso anno, del 300%. Ovviamente reati a mezzo informatico è tutto, e poi ci sono anche le truffe, il furto d'identità e altro. Però è necessario far capire a questi ragazzi che il bullismo, che secondo me è un termine troppo elegante per descrivere determinati fenomeni, può anche configurare delle ipotesi di reato, perché poi quando succede il fatto troviamo dei ragazzi, ovviamente sopra il termine dell'imputabilità, quindi sopra i 14 anni, che vanno in questioni giudiziarie molto complesse. La trasmissione di materiale pornografico, piuttosto che la trasmissione anche di i dati sensibili di una ragazza o di un ragazzo, sono tutti reati. È chiaro, fanno delle azioni, e qui Alessandro Giglioli, poi senatrice Ferrara, Alessandro, fanno delle azioni spesso, tu dici sempre, è come una città, no? La rete, ci sono le strade pericolose, ci sono le strade più sicure, bisogna insegnare ai nostri ragazzi a andare sulle strade sicure e non sulle strade pericolose, però non è facile, voglio dire. Poniamola dal punto di vista invece, cosa dice Cameron e cosa scrive Romagnoli, cioè dire certe cose andrebbero anche chiuse, bisogna avere il coraggio di farlo. Beh, dunque, io non voglio entrare in alcun modo nella vicenda specifica, quella di Padova, perché le ragioni dei suicidi sono solo nella testa dei suicidi, poi anche per rispetto della famiglia vorrei, e tutto quello che dico, come dire, trascenda la vicenda singola e sia detto in generale. Allora, Ask, l'abbiamo detto, l'abbiamo scritto, noi non per la pubblicità, ma sull'Espresso ne abbiamo parlato parecchio, è un pessimo posto, è un posto violento, dove tra l'altro i ragazzi vanno apposta perché non ci sono i grandi, al contrario di quello che accade su Facebook, no? Dove noi grandi, Facebook ha sempre di più i capelli grigi, i ragazzi scappano da un luogo dove ci siamo noi con i capelli grigi e vanno in un posto a loro dedicato o comunque che loro hanno occupato. Se un adolescente, magari espresso o con problemi di autolesionismo, poi frequenta un luogo violento, un quartiere malfamato, la responsabilità è sicuramente del luogo violento, ma è anche di chi ce lo lascia andare. Cioè, mi chiedo, è giusto prendere solo un quartiere violento o dobbiamo fare un piccolo esame di coscienza noi genitori, che dovremmo presidiare la crescita dei ragazzi, no? Che magari gli parliamo così poco che quelli preferiscono parlare con degli sconosciuti e che non sappiamo poi in che quartieri vanno questi ragazzi quando la notte si attaccano al computer. Guardi, io penso che siamo veramente dei poveretti se pensiamo che il nostro compito sia proteggere i ragazzini dal bau bau o invocare la chiusura del bau bau invece di insegnare ai ragazzi a proteggersi da sé, da questo bau bau. A me ricordo un po' come quando da ragazzo ho fatto un pochino di volontariato in un'associazione che cercava di aiutare i tossicodipendenti in un quartiere di Milano, no? E più delle volte io avrei voluto mettere le mani addosso più ai genitori che ai pusher, perché mi sembravano ugualmente responsabili della condizione in cui si trovavano questi ragazzi. Per quanto riguarda le due proposte che tu hai citato, Alessandro, sono cose diverse secondo me, non le conosco nello specifico, però sì. Se si parla di boicottare, cioè di sensibilizzare, di far capire ai ragazzi appunto che ci sono che la rete è una città meravigliosa all'interno della quale ci sono quartieri stupendi e quartieri orrendi, e Ask è un quartiere orrendo. Io sono d'accordo con Cameron se ha detto questo, cioè invitare alla sensibilizzazione, ragazzi. Se parliamo di chiusura fa ridere, ma lo stesso Romagnoli, tra l'altro, lo stesso Gabriele Romagnoli, proprio diciamo in maniera antipragmatica, aggiunge, ben sapendo che essendo, utilizzando questa immagine della rete, chiudi una maglia che si è rotta e se ne apre subito un'altra, cioè non è questa la soluzione. Però dopo il traffico riparto dalla senatrice Ferrara, che ci dirà in sintesi che cosa propone allora con questo disegno di legge sul per contrastare il cyberbullismo. Eccoci qua. Allora, senatrice Ferrara, l'educazione, il ruolo educativo, questo lo abbiamo sviscerato. Lei che è anche insegnante delle scuole medie, è stata anche l'insegnante della ragazza che si tolse la vita invece a Novara, e questo lo sappiamo. Che cosa si può proporre però in concreto in un disegno di legge per contrastare questo fenomeno? Ecco, guardi, il disegno di legge parte anche dal contesto in cui comunque lavoro adesso come senatrice, cioè la Commissione straordinaria diritti umani al Senato. Quindi l'ottica è quella della tutela della dignità del minore all'interno di quel contesto, del contesto che abbiamo visto essere così complesso e così critico. Diciamo che da una parte c'è l'intenzione di definire il cyberbullismo, che è comunque un termine abbastanza nuovo, dietro il quale si intendono tanti tipi, insomma, anche di reato che dai ragazzi non vengono per niente percepiti, come appunto si diceva prima, quindi non le ripeto, il furto di identità, l'aggressione, la denigrazione, l'ingiuria, cioè loro non si rendono conto molto spesso che dietro quelle parole, quelle sì. Immagini che loro in qualche modo rapiscono, perché spesso invitano la ragazza magari a fare una foto anche intima, e poi se questa ragazza si permette magari di fare qualcosa che non va, quella foto diventa patrimonio di tutti. Allora, che cosa possiamo fare? Naturalmente dobbiamo tutelare la loro dignità, e quindi ci sono dei passaggi che riguardano questo aspetto, la protezione dei dati sensibili dei ragazzi, e qui naturalmente viene coinvolta la polizia postale attraverso un meccanismo che vede però l'attività del maggiorenne, quindi del genitore o di una figura, un referente adulto che viene messo sull'avviso. E questo è il problema che dicevamo prima. Allora ci deve essere comunque qualcuno che è una figura di riferimento nella scuola prima di tutto. Vuol dire che se un adolescente fa qualcosa che non va, viene, diciamo, la polizia postale chiama l'adulto, diciamo il genitore, per semplificare? No, il contrario, il genitore avverte Non se ne accorge? Il genitore, naturalmente, e questo è il problema che è emerso prima, cioè il fatto che comunque i ragazzi debbano essere sensibilizzati attraverso la scuola, debbano fare un percorso culturale importante e di informazione, tale per cui si debbano rendere conto che a certi livelli si tratta veramente di reati, la sofferenza dell'individuo è talmente forte che anche per esempio un compagno, i compagni possono fare rete. Guardi, ieri eravamo all'interno al Safer Internet Day, ha parlato Giovanna Boda, che è la referente di questo problema al Ministero dell'Istruzione, e ha detto: ragazzi, noi ci prendiamo tutti la nostra responsabilità, noi adulti, noi mondo, anche dei ministeri, delle istituzioni, ma guardate che le prime sentinelle della legalità siete voi. Ah no, ma è questo, infatti, è quello che mi chiedevo, cioè le prime sentinelle dell'amicizia. No, ma questo infatti è quello che mi chiedevo, cioè come con un disegno di legge si possa, voglio dire, sensibilizzare i genitori a fare i genitori, questo, cioè, nel senso, ma non per voler smontare il disegno di legge, che sarà importante, ma nulla può invogliare, incentivare i genitori a prendere in mano questo ruolo e a farlo fino in fondo, questo intendevo. Mi lasci dare la parola a un'ascoltatrice, Maria, dalla provincia di Pavia. Maria, buongiorno. Buongiorno. Senta, io ci sono dentro perché ho appena sporto una denuncia alla polizia. In che senso? Perché mi sono accorta di un addescamento di uno dei miei figli e ho sporto denuncia questa settimana alla polizia. Quello che io voglio dire a tutti i genitori è di denunciare, perché è doloroso, molto doloroso, ma bisogna farlo, non vergognatevi, denunciate, perché sono dei reati gravi e vengono prese queste persone, quindi denunciateli, non, infatti i nostri figli sono protetti, perché mia figlia adesso è seguita dai centri di assistenza ai minori. Denunciateli, perché sono anche dei reati gravi. Quello che io ho sentito dire adesso al telefono è vero, ma io me ne sono accorta subito, perché sono molto vicina ai miei figli. Sono entrata con loro dentro Facebook e tante volte ci sono entrata, ma tante volte non sono riuscita neanche a identificarli, perché erano comunque amici, compagni, ma dentro questi 50 amici ce n'erano due che non erano amici, erano personaggi disgraziati. Maria, io ho fotografato e ho denunciato tutto, denunciate, non vergognatevi genitori, denunciate. Io Maria la ringrazio e ovviamente le facciamo tanti in bocca al lupo, non ho molto da aggiungere, non so, c'è un magistrato però, Fabio Roia, che credo possa accogliere se non altro l'appello di Maria, che dice di denunciare, di avere fiducia, insomma esistono gli strumenti per bloccare poi le persone laddove c'è un reato? Ah no, sicuramente, la signora ha fatto una cosa molto intelligente, perché l'unica cosa che possiamo dire è che internet lascia traccia, quindi chi si cela dietro all'anonimato, grazie alle tecnologie che applicano gli organi di investigazione, certamente sono in grado sempre di identificare l'autore del reato, quindi da questo punto di vista poi l'accertamento e l'identificazione è molto semplice con gli strumenti tecnologici che abbiamo. Certamente la signora è stata molto brava, perché ha seguito la sofferenza della figlia e quindi è intervenuta, immagino, in una fase anteriore, in modo tale che potessero essere evitati ulteriori danni alla ragazza, perché immagino che queste forme poi di adescamento si traducano in episodi di violenza sessuale. Certo. Giglioli, qui quando si parla di legislazione e la rete sono sempre materie così delicate che suscitano polemiche, non solo i dibattiti nella rete, ma tu vedi la possibilità che si possa in qualche modo legiferare per cercare, certo, sensibilizzare va bene, insomma, questo si può fare anche, strumenti educativi ci sono, conferenze, scuole, opuscoli, parlare, dibattiti. Ma legiferare per cercare di moderare quello che è il linguaggio sulla rete, come lo vedi? Ma guarda, Alessandro, l'hai messo già in luce tu, seppur con molta pacatezza, la stranezza di una legge che io non conosco, di cui sento parlare oggi, di cui non ho letto il testo, quindi non giudico, però sarebbe un po' strana una legge che parte dal presupposto che le sentinelle sono i genitori, quando i genitori non fanno le sentinelle, quindi rischia di essere bella magari come legge, ma un buco nell'acqua. Se parliamo di decisioni politiche, quindi di legiferare, io ho sentito qualche giorno fa, io non voglio far polemica ragazzi, però quando sento sta roba mi viene il sangue caldo, ho sentito il ministro Carrozza dire che l'educazione digitale non è una materia. Allora, l'educazione digitale non è una roba soltanto tecnica, non è che si insegna ai ragazzi a copia e incollare una URL. L'educazione digitale, se fatta bene, sono tutte le robe che abbiamo detto questa mattina. Che nella scuola, il problema è che l'educazione digitale spesso non si dà a casa perché i genitori ne sanno meno dei figli, quindi stiamo parlando di genitori che leggono i giornali che i figli non leggono e di figli che vanno in internet dove i genitori non vanno. Parliamo di un'educazione digitale in un contesto in cui l'educazione digitale il più delle volte non può essere data dalle famiglie, e fortunata, di lusso è la famiglia in cui il genitore o almeno uno dei genitori ne sa abbastanza per accompagnare il figlio nei social network, per spiegargli magari prima quali sono i pericoli a cui va. Però la priorità di un intervento legislativo, secondo me, se togliamo, come dire, l'istia proibizionista, senza giustificare in alcun modo app che, ripeto, è un po' orrendo, ma che difficilmente possiamo andare a beccare, perché chiuso un'app, come dicevi. No, ma è chiaro, non è 24 mattino.